Abbiamo anche fedelissimo omicidio con Antonio Zovet a Berlino. Saraboy, Cristiano Bocci, colui che ha organizzato la compilation che accennavo prima. Cristiano Bocci di Chemical Resistance, ma non solo. Saluto anche Francesco Cornello in quel di Bergamo, Ernesti Panico Brusati. Barbara Caridi, artista 360 gradi qui di Roma e il medico della peste. Come al solito andremo avanti sino alle 22:30. Ci dovrebbe essere 25 o'clock. Ma sicuramente c'è adesso Lupsi, che ci andiamo a godere tramite il suo ultimo lavoro dal nome Poetry Kingdom. Lavoro che vede anche la supervisione alla masterizzazione di Raffaele Pezzella, che tutti noi di Prove Tecniche conosciamo ampiamente. E le atmosfere di Lupsi, come i più sanno, sono riconducibili, se vogliamo, alle sollecitazioni kraut di tedesca memoria, atmosfere dilatate se non oniriche. Conferma dunque la possiamo trovare in Eyes on the New Land e Winter Dance Visions. indubbiamente la fanno un po' da padrone queste atmosfere così sognanti, create dall'elettronica e dalla chitarra trattata di Lucia Cagliazza in arte Lupsi. Ormai in attività da molti anni e sul suo profilo Bandcamp si possono trovare anche le preziose opere del passato. Una delle esponenti al femminile più interessanti degli ultimi anni, Lupsi. Non so che di cosmico e siderale, come dire, sono due caratteristiche che rendono Lupsi abbastanza riconoscibili. Salutiamo Lucia e andiamo avanti. Saluto intanto Like Wake, la storica ambient romana, Jean-Claude Bertot. Mariano qui a Roma. Salutiamo Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster. Vi do un'anticipazione, la prossima settimana faremo un'intervista a Christian Muela. Christian Muela è un artista che suona il didgeridoo in un campo, diciamo, più elettronico e sperimentale, quindi parleremo della sua art e parleremo di questo strumento straordinario. Quindi mercoledì prossimo una parte di Prove Tecniche sarà dedicata a questa intervista qui in studio. Si rimane in Italia, ci trasferiamo alla Dissipazio, etichetta di Nicola Quiriconi, che ormai tutti conoscete, tra le realtà più apprezzate degli ultimi tempi, e che ha sotto contratto, diciamo, una sfilza di artisti interessantissimi, compreso Antonio Tognetti. Già conosciuto in passato come collaboratore in album di Gianluca Becuzzi, lo abbiamo qui con il suo lavoro No Longer Human, dedicata alla opera e con il titolo della novella di Osamu Dazai. E allora di Antonio Tognetti ci andremo ad ascoltare la terza traccia, che porta il nome di Third Notebook. Thank you. Questo era No Longer Human, ultima fatica per Antonio Tognetti, musicista proveniente da Viterbo. Interessante l'affermazione di Antonio Zovet, sempre puntuale ed efficace nei suoi interventi, giacché mi sento di sposare la sua tesi, ossia che queste atmosfere che ci siamo sentiti possono anche ricordare le meraviglie degli anni 70, per esempio degli Actuala, che fu uno dei gruppi più interessanti e misterici proprio di quella generazione, a dimostrazione di, perché per certi aspetti determinate sonorità sono anche senza tempo, al di là del tempo, lo sfidano e vincono nell'essere così permanenti nello spazio e nelle nostre esistenze. Saluto intanto 25 O'Clock. Peraltro la scelta anche delle voci come ospiti in questo album, ossia Claudio Milano e Giorgio Pinardi, sono un po' in linea con la mia affermazione. Giorgio Pinardi anche ha accennato un canto bitonale che mi ha ricordato anche il grande Demetrio Stratos. Nella società degli esseri umani, dove ho dimorato sin oggi come in un inferno rovente, tutto passa. Questa è l'ultima traccia che ci ascolteremo mercoledì prossimo, con questo inizio così misterioso e interessantissimo. Come dice Giovanni Lisi, celebrazione o dissipazione degli incubi, a voi la risposta. Fatto sta che No Longer Human rimane un'opera ad alto livello in questo 2024. Saluto Margherita Montoneri e Gatto compreso. I gatti sono spesso all'ascolto qui nei nostri spazi musicali. Adesso andiamo nella 8 Tower Records, ovviamente label fondata da Raffaele Pezzella insieme alla Nespresso Sounds Group e alla Zero K. L'8 Tower Records si distingue perché ha un approccio, diciamo, più aperto alle contaminazioni con la letteratura, e con atmosfere forse più rarefatte e sperimentali rispetto alla Nespresso Sounds Group. E questa sera ci ascolteremo altri due passaggi da questa compilation dedicato alla figura leggendaria di Dracula. Come recita il sottotitolo, Music Inspired by the Bram Stoker's Novel, scrittore che ha ideato la novella appunto Dracula, e moltissimi musicisti dunque omaggiano questa figura. Questa sera è il turno dello scozzese Michael Bonaventure, di casa qui a Prove Tecniche di trasmissione, e poi si rimane nel Regno Unito con Green Frequency, con una traccia dal nome The Demeter, mentre Michael Bonaventure ci farà ascoltare Dungeons of Dreams. una delle tantissime compilation prese dallo sterminato campionario ideato da Raffaele Pezzella, questa volta attraverso la 8 Tower Records, music inspired by the Bram Stoker's novel, ossia Dracula. Michael Bonaventure e Grief Frequency. Quest'ultimo Gavin Morrow, artista anche visuale, diciamo multimediale, in attività dal 2012. Effettivamente vero e proprio viaggio interiore anche questo di Grief Frequency. Saluto Marcello Buffetti di Monum, grossa realtà elettronica che ormai è un affezionato degli spazi del sottoscritto. Questa è la prima di due compilation che ci ascolteremo questa sera, la seconda è la Radio Legend Artist for DJ Electrodo, quella dedicata diciamo al sottoscritto e dalla quale estraremo tre artisti. Invece torniamo in Italia, andiamo da Ignoto Miriti. Quindi apriamo una finestra sul neofolk, sul martial, sulla tematica della guerra e l'antimilitarismo che trapela dalle tracce che ci andremo ad ascoltare, estratte da Presente, album del 2020. La prima si chiama Polivalente a protezione separata, che è una ironica in senso noir e teatrale, diciamo quasi una teatrale, una pista teatrale che parla delle maschere di protezione in voga nella Prima Guerra Mondiale. Avremo poi la riflessiva Nella Nebbia e anche San Michele, vero e proprio manifesto del neofolk. Legandolo poi fortemente sopra il proiettile spezza questa monotonia. Una giallastra nebbia sale dalla linea rivale, porta con sé i semi del male. Serpeggia nell'aria con tanfo di cloro, si aggrappa al respiro di tutti coloro che il segnale d'allarme non hanno udito e cadono colpiti nel loro nido. Torce nel dolore, se ancora la morte non gli ha fatto il favore, passa la mazza del nemico che con un colpo lo rende stecchito. Indossi la maschera dalla paura, ma ti tocca la sventura. Il tempo di agire ormai è passato, ti accascia al suolo addormentato. Forte potere evocativo emanato da Ignoto Militi in tutta la sua produzione, compreso questo presente uscito nel 2020, l'intensissima San Michele. Prima c'era Nella nebbia e la, diciamo, ironica polivalente Protezione separata. Cronache dunque di prima guerra mondiale, di morte e sofferenza in quel del Carso. Lui proviene da Udine, stessa città di Lupsi. Di terra e di mare, l'ora solenne delle rivendicazioni. E invece adesso si va nel profondo nord svedese con Stratum Terror di Peter Andersson, meglio conosciuto come Rise on Death. Stratum Terror però si va a manifestare come l'anima, diciamo, più industrial e da canglore punto metallico che pervade molte tracce contenute in questo Love Me Tender or I Will Cause Pain. Eccola qua, The Uncertainties of Death. was hit 8 times and the other was hit 13 times. And I think 8 of those were in the back. There's no other way to say it. He just murdered them in cold blood. Nobody has to shoot anybody that many times. If they were in there to harm him, all he had to do was shoot them in the leg or something so that they couldn't run and call the police. Now this man has killed 5 people and he has not spent 1 day in jail.